Vendo tutto di Matteo Caccia. Il mio divano pesa 40 kg, il televisore 15, la Vespa un quintale. La mia collezione di topolini di chili ne pesa 17, i miei sci 2 e gli scarponi 3. Ma a me non interessa più, perché ho deciso di alleggerirmi di tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni. Mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. Oggi vendo un orologio da polso. Sono le 16:09 minuti, oggi è venerdì 12 febbraio 2010, buongiorno a tutti, domani è sabato 13, dopodomani è domenica 14. Mi è arrivata una mail, avendo tutto, @radio24.it, che mi diceva: come ti comporterai per San Valentino? Come mi comporterò? Semplicemente vendendo il regalo che mi ha fatto la mia ex, mi sembra la cosa più semplice. Ovviamente San Valentino è domenica, non siamo in onda, quindi tocca venderlo oggi. Oggi vendo un orologio da polso. Ieri però mi è arrivata tra le mani, grazie a Lauretta Faggin, che è quella meravigliosa donna che sta in redazione con noi, secondo un'indagine 19 milioni di italiani sono propensi a rivendere i regali degli ex con una stima di guadagno superiore a 100 euro di media. Il 53% vi rivenderebbe i ricordi degli ex per guadagnarci dei soldi, quindi la metà è per semplicemente farne i soldi, solo il 9% per vendetta. E tra l'altro di questi, circa la metà, cioè il 48%, non usa più i regali ricevuti da un ex. Qualcuno semplicemente li tiene per ricordo, molti li hanno dimenticati in un cassetto e alcuni li hanno addirittura buttati. Tra gli oggetti più venduti ci sono al primo posto i gioielli e la bigiotteria, al secondo posto l'arredamento per la casa, al terzo posto oggetti di tecnologia. Il mio non riguarda nessuno di questi perché è semplicemente un orologio da polso. Però 800240024, voi che cosa ne avete fatto dei regali che i vostri ex vi hanno regalato a San Valentino? Qualcuno ci li usa tipo bambolina voodoo, altri lo usano semplicemente come se fosse un oggetto qualunque, altri gli danno fuoco e altri come me lo vendono. 800240024 per raccontarmelo in diretta, oppure 349-238-6666. Andiamo avanti perché è arrivato il momento di raccontare la storia del mio orologio, cioè suo, poi essendo regalato è diventato mio. Lo vedete su radio24.it, lo sentite invece qui. L'orologio da polso. Orologio Swatch modello classico, cinturino in plastica di colore nero, chiusura a fibbia in plastica anch'essa nera. Quadrante bianco con numeri neri e lancette fluorescenti, indicatore della data e del giorno della settimana, diametro quadrante 33 mm, impermeabile fino a 30 metri di profondità. Ha una piccola scheggiatura sulla parte sinistra del vetro quadrante, usato e si vede. Perfetto per chi voglia un orologio classico ma leggero, adatto a chi ci tenga a sapere sempre in che momento della giornata si trova. Valore commerciale 25 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono oggetti che mi hanno cambiato la vita. Quello che vendo oggi è uno di questi. Non è un biglietto della lotteria e non è nemmeno un diamante da 150 carati. È un orologio da polso. È l'orologio che sto portando al polso in questo momento, che porto da 4 anni. È un orologio semplice, non è prezioso. È di quelli che si comprano per pochi euro e fino a qualche tempo fa andavano molto di moda. Vale veramente pochi soldi. Però tra tutti gli oggetti che ho venduto fino ad oggi, questo è sicuramente quello che pesa di più. È stato il primo regalo che mi ha fatto Giulia, quella bip della mia ex fidanzata. Io faccio fatica a ricevere i regali. Mi creano sempre una situazione un po' di imbarazzo e un po' di fastidio. L'imbarazzo è dovuto al fatto che non so mai che faccia fare e poi come ringraziare per non sembrare scortese. Il fastidio invece lo provo perché ho sempre l'impressione che l'oggetto che mi regalano non sia mai esattamente quello che voglio. Cioè, anche se ho espresso un desiderio, qualcuno l'ha intercettato e mi regala esattamente quello, non sono mai soddisfatto fino in fondo. Cioè, mi piacerebbe sempre essere io la persona che lo cerca, che lo trova, che chiede informazioni a proposito e poi se lo porta a casa. Il fastidio poi ovviamente aumenta quando ricevo regali sbagliati. Per regali sbagliati intendo quegli oggetti in genere che non appartengono alle categorie di cose che tu usi nella vita, no? Tipo una sciarpa del Milan se sei dell'Inter o un salame se sei vegetariano. Ecco, questo orologio era esattamente uno di questi. Era un regalo sbagliato. Tra le categorie umane in cui si divide il mondo, tipo chi vota a destra, chi a sinistra, chi mangia la trippa, chi non la mangia, chi ha paura dell'aereo e chi no, Due categorie sono fortemente divise e sono chi porta l'orologio e chi non lo porta. Secondo me non si tratta di gusti diversi, ma proprio di un diverso approccio al mondo, alla realtà. So che detto così sembra una banalità, perché poi alla fine viviamo tutti nello stesso posto, no? Regolati dagli stessi fusi orari, dallo stesso clima. Eppure la frattura tra chi decide di tenere il tempo sotto controllo misurandolo con un orologio e chi invece l'orologio non lo porta è enorme. Chi indossa un orologio vuole sempre sapere in quale momento si trova nell'arco della giornata. Vuole contare le cose che ha fatto da quando si è alzato fino a quel momento e poi poter immaginare quello che farà da lì alla fine. Chi non lo porta invece non è che non consideri gli orari di riferimento dell'umanità, è solo che regola la propria giornata su ritmi più intimi e si abitua a misurare il tempo. Cioè come se chi non porta l'orologio fosse più in grado di misurare quanto tempo ci impiega ad andare da una parte all'altra della città, ad esempio, quanto per preparare una pasta o per scrivere una mail. Cioè, se si chiede ad una persona che non porta l'orologio che ore sono, lui non dirà sono le 2 se sono le 11 del mattino. Sbaglierà al massimo 10 minuti. Ecco, la cosa diversa è il tempo verbale che usano queste due categorie. Cioè, il presente della certezza di chi conosce l'ora, sono le 16 e 14 minuti. Contro il futuro della probabilità di chi l'orologio non ce l'ha. Oh, saranno le 4 e un quarto. Ecco perché queste due categorie sono così diverse. Per una il tempo è un dato di fatto, per l'altra è un'ipotesi nel futuro. Io appartenevo a quest'ultima categoria, prima di ricevere questo orologio, prima che Giulia mi cambiasse. Questo Swatch è il modello più classico e semplice che ci sia. Nero, cinturino in plastica, quadrante bianco con i numeri neri, indicatore del giorno e della data, punto. Quando me l'ho regalato quasi 5 anni fa, eravamo in macchina. Stavamo andando al mare verso casa sua in Toscana. Era la prima volta che facevamo un weekend insieme. Ci trovavamo su quel pezzo di autostrada in Liguria in cui, all'improvviso, dopo una curva là in fondo spunta il mare. Era la prima volta che lo vedevamo insieme. E anche se nessuno lo ha detto, credo che ci abbiamo pensato entrambi. Era un giorno di fine maggio. Tenevamo i finestrini appena abbassati e l'aria entrava morbida in macchina. Lei mi chiese a che ora saremmo arrivati e io dissi la solita frase generica, tipo arriveremo verso le 10, 10 e mezza. Lei allora si appoggia la borsa sulle gambe, tiro fuori un pacchetto stretto e lungo e mi disse tieni, così non spari più a caso quando ti chiedono l'ora. Stavo guidando, quindi lo aprì lei, me lo fece vedere e me lo mise al polso. Mi ricordo molto bene il modo dolce e leggero con cui me l'allacciò. Poi allontanò appena la testa, mi sorrise e mi disse guarda, l'orologio dovrebbe stare al polso sinistro, però non ci arrivo a mettertelo dall'altra parte, poi ti sta bene su quello destro. Da quel giorno non l'ho più tolto, nemmeno di notte, nemmeno sotto la doccia. In estate mi lascia il segno della bronzatura e in inverno faccio fatica ad infilarci i maglioni, però non l'ho mai tolto. Ho sempre pensato che se l'avessi levato non sarei stato capace di rimetterlo. Ho aspettato a farlo, fino al momento in cui avrei trovato un buon motivo per liberarmene. E quale motivo migliore se non che sto vendendo tutto? Ecco perché me lo tolgo adesso, qui, in diretta. È di plastica, quindi mi spiace, però probabilmente a casa non sentirete nessun rumore. Però, niente, o lo faccio adesso oppure non lo faccio più. Voilà. Mi sarebbe piaciuto farvi sentire il suo ticchettio, però non è possibile. Non so per quale strano motivo, però la batteria è finita mesi fa, il giorno in cui questa relazione è finita. Il giorno della lettera nella bottiglia, non so se ve la ricordate. Le lancette infatti sono ferme ad allora, alle 4.52 di un venerdì 14. Ah, c'è un piccolo difetto in questo orologio. Il vetro ha una scheggiatura sulla parte sinistra del quadrante, proprio tra le 8 e le 9. Non ricordo nemmeno come e da cosa sia stata causata. So che è stata lì praticamente sempre. Non ho mai voluto cambiare il vetro perché mi sembrava ancora più bello tutto l'orologio attorno a quella piccola crepa. Io sono tornato ad essere la persona che non porta l'orologio. Sono tornato ad esserlo nel momento esatto in cui la storia è finita. Perché lui si è fermato e anche se io continuavo a tenermelo al polso, lui segnava l'ora giusta solo 2 volte al giorno e quindi ho smesso di guardarlo. Questo oggetto per 4 anni però mi ha cambiato la vita. Me l'ha cambiata nello stesso modo in cui le persone che stanno con noi ci cambiano. Perché succede così? Perché è giusto così. Con lei sono passato da essere quello che supponeva che ore fossero a quello che sapeva l'ora esatta. Mi ha fatto diventare una persona che parlava al presente quando ero uno che ipotizzava il futuro. Eppure, nonostante tutto, nonostante la misura del tempo e la sua piccola scheggiatura, questo orologio da polso è in vendita. Il suo valore sul mercato sono 25 euro. La base d'asta qui parte a 99 centesimi. Per raccontarmi cosa avete fatto dei vostri regali, 80024 0024. Out in the cold. Well, you're just like a fat and crazy brother of mine. You know I love you like I should. You never talk under to behind my back. And I know that there's ways you could. Please, won't you, baby, tonight. Love is a lesson to learn in our time. Please, won't you, please, won't you. Bear it in mind for me. May I never lay your head down without a hand to hold. And may I never make you better. È un po' un peccato entrare su John Martin, sono le 16:21, questa è Radio 24. Intanto al 349-238-6666 mi scrive, purtroppo non si firma: sono un appassionato di orologi, in un certo periodo ho lasciato gli orologi ed è vero, posso confermare, si prova un'assoluta sensazione di libertà. Ora sei libero, chiunque tu sia ti ringrazio. Invece 80024-0024 per sapere cosa ne avete fatto dei regali dei vostri ex. Andiamo a Pistoia da Giovanni, pronto? Ciao, buongiorno. Ciao Giovanni, Matteo. Buongiorno, come stai? Bene caro, senti, innanzitutto ti volevo dire, guarda, non mi fa una malattia di questa fidanzata. C'hai ragione, c'hai perfettamente ragione Giovanni. E anch'io sono stato lasciato, sì. Però l'ho pensata tanto, ma non lo rimpianta mai. Bravo, sono d'accordo con te, quindi d'ora in avanti, ma infatti è per questo che vendo tutto alla fine Giovanni. Dimmi... No, ma non vorrei che tu vendessi tutto per scordarla. Ma va, no, vendo tutto perché è liberatorio. Senti, dimmi cosa ne hai fatto di quel regalo che ti ha regalato la tua ex. Lei l'aveva fatto direttamente, lei, un maglione, e io l'ho venduto. Oh, e quanto ci hai fatto? Poco, 10 euro, ma l'importante era venderlo, cioè... Volevo che niente restasse in memoria. Per ricordarmi una persona che non aveva valore. Poi soprattutto perché il maglione te lo portavi addosso. Ma dov'è che l'hai venduto? A un banchetto oppure a un amico? No, a un amico. Ok. Giovanni, ti ringrazio molto, seguirò il tuo consiglio. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Andiamo a Cuneo da Mauro, pronto? Ciao, buongiorno. Ciao Mauro, tutto bene? Sì, bravo. Tu tutto bene? Io tutto bene, grazie. Dopo i convenevoli possiamo passare ai nostri regali. Cosa ne hai fatto? Dai, ti racconto quello che mi è successo. A me è successo il contrario. Nel senso che un certo bel giorno, ma dopo questa storia era finita già da un pezzettino, questa ragazza arriva a casa mia con una scatola, con i lacrimoni che gli scendevano direttamente dagli occhi sulle tette così, e diceva: questa è la roba che mi hai regalato tu, non la voglio vedere mai più. E tu sai, quando apri la porta così, non ti aspetti questa cosa qua, ci sono rimasto un attimo. Non riuscivo a realizzare bene quello che mi è successo, no? Poi ho detto, ma no, questa roba qua non è roba mia, è roba che ti ho regalato, è roba tua, ti appartiene. Okay, no, giusto. No, io non la voglio, non me ne faccio niente. Ho detto, ma senti, l'unica cosa che posso fare, vado al fiume e la butto giù, tanto non è né mia né tua, non è di nessuno, scherza, la prenda chi vuole. E l'hai buttata nel fiume? No, poi ho detto, vabbè, allora questo cosa, no, allora la tengo. Sennò che cosa succede? Passano... ma neanche 10 minuti, sì. Mi telefona un mio caro amico che ha un'attività e mi dice: senti, devo dirti una cosa, è venuta la sua ex fidanzata con una scatola con la tua roba dentro, voleva darla a me che la portassi a te. Ho detto, questo qua è andato fuori completamente. Senti, non l'ho presa. Ma Mauro, quanti anni avevi? Quando è successo, quanti anni avevi? Non ero tanto ragazzino, avrò avuto un 27-28. Adesso quanti anni hai Mauro? Parecchi, 42. Ok, sei sposato, sì, hai una fidanzata? Non ho sposato. Ok. Senti Mauro, ti ringrazio, se hai qualcosa da vendere fammi sapere che magari ci penso io. Buona giornata. Grazie. Ciao Mauro. Ciao. Andiamo, questa è una vecchia conoscenza, andiamo a Roma, Lulu. Ciao carissimo. Ciao, come stai? Sono veramente appena uscito da una bufera di neve, diciamo così. Ma nevica ancora a Roma? No, io non sono a Roma, sono in provincia di Roma, sul lungomare. E nevicava sul lungomare addirittura? Addirittura è stata una cosa veramente bella, mi ha ricordato, e la tua trasmissione la sento tutti i giorni perché ha a che fare molto con la memoria, sì. perché gli oggetti si consumano e i sentimenti pure, e quando uno riesce a legare l'oggetto col sentimento, ti senti, come dire, un po' nel destino della vita, lo accetti così com'è. Senti, è quell'oggetto che ti aveva regalato l'ex, come, che fine ha fatto? Allora, molti spiegano, ho fatto tanti di quei pezzettini, era una lettera, pensa che diceva, perché in quel momento non aveva soldi, no? Sì. Allora, per giustificarsi mi manda una lettera dove c'è scritto come intestazione, io sono un regalo, mi è preso un colpo. Cioè lui ti ha mandato una lettera, il regalo era la lettera o era lui? Allora, l'intestazione, segui me, no? Ti seguo. Allora, mi arriva questa lettera, no, consegnata a mano e lui se ne va, dopodiché io la apro, c'è scritto io sono un regalo, e giù che parlava del tempo dell'amore, del tempo delle delusioni, del tempo delle illusioni. Poi era talmente demenziale che era, alla fine era bella, no? Cioè diceva, certo, che il regalo vero non è quello materiale che si consuma nel tempo, è quello che ti rimane nella memoria. Però alla fine, Lulu, tu cosa ne hai fatto di questa lettera? L'hai fatta in mille pezzi. Sì, ho preso, ecco, la foto di tanti coriandoli che tu neanche ti immagini. Senti, devo chiudere, dimmi che regalo fai per San Valentino al tuo compagno. Preservativo. Ciao Lulu, buona serata. Ciao, grazie. Presto. Ciao, leggo l'ultimo messaggio che è arrivato al 349-238-6666 che dice io l'album regalato al matrimonio in Albania gli ho dato fuoco. Saluti Claudio. Io invece la lista dei miei desideri di fuoco non glielo do per niente. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Grazie, grazie a Laura Faggina, a Tiziano Bonini, ad Alessandro Genovesi e a Paolino Corleoni. Voi volete vedere l'orologio? Andate sul sito di Radio 24 e lì potete anche risentire la tua storia attraverso il podcast. Vi auguro un ottimo fine settimana, con o senza San Valentino tra i piedi, ovviamente. Poi lunedì si riparte con un oggetto di tutto rispetto, perché lunedì vendo il mio telefono cellulare. Quindi che guardiate l'ora oppure no, che portiate l'orologio oppure no, ricordatevi che anche un orologio è semplicemente un orologio. Love, love, love. Wherever.